Nel cor mio a me proteso, s'attrista sul di lei sorriso. Lo sguardo di quell'ombra e tace, solerte, a rimproverar quel camuso aspetto. Che mai ora ha diviso i miei pensieri. Come bocca gote rosse, come bambina dagli occhi incerti. Ascolta quel respiro chiusa nel silenzio. E si addormenta di vivi sogni, attorcigliata nel suo corpo. E la sfioro nei capelli lunghi.